Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Ci sono dei romanzi che io definisco diesel, nel senso che iniziano un po' lentamente, non hanno proprio un incipit strong, e poi ti conquistano pagina dopo pagina, perché ci si affeziona ai vari personaggi che compaiono e si vede proprio, come dire, si seguono le loro vicende passo dopo passo. Uno dei romanzi diesel che mi è piaciuto ultimamente si intitola Le fragili attese, scritto da Mattia Signorini, pubblicato da Marsilio. Quando si parla di Mattia Signorini, come sempre andate su Google per vedere la sua faccia, Google Mattia Signorini, eccetera, si dice il giovane scrittore. Eppure questo giovane scrittore, sì, perché hai 35 anni, giusto? Quasi 35, e già al suo quarto romanzo. Tra l'altro, qui al Cacciatore di Libri avevamo già parlato di alcuni tuoi romanzi precedenti. Cito i titoli così per ricordarli: Lontano da ogni cosa, La sinfonia del tempo breve, Ora, quindi trovate anche sull'archivio del Cacciatore di Libri le interviste precedenti. Dicevo che questo Le fragili attese è un po' un diesel, nel senso che pagina dopo pagina si conoscono nuovi personaggi. Questo innanzitutto è un romanzo corale, ci sono diversi personaggi, c'è Italo, che è, come dire, la persona che tiene, che gestisce una pensione, poi c'è Guido, che è un professore d'inglese, poi Adolfo, un generale in pensione, Ingrid, un arpista, insomma ci sono vari personaggi, ma forse la protagonista è un po' lo scenario, ossia la pensione Palomar. Esatto. Italo è un uomo che allora un ragazzo che nel 1952 lascia la provincia in seguito, oltre che alla povertà, all'alluvione che colpì il Veneto nel 1951, e arriva a Milano per trovare lavoro come tutti quanti, in una fabbrica o in un qualsiasi posto. Si mette in coda proprio per cercare di trovare lavoro, invece poi non lo trova, ma soprattutto ha un'intuizione. Lui si porta un dolore molto forte dietro e decide di chiudere questo dolore acquistando il dormitorio dove era andato ad alloggiare la prima notte, e lo trasforma in una pensione, che è appunto la pensione Palomar. E questa pensione sopravvive per 50 anni. Infatti nel romanzo si seguono, diciamo, dagli anni 50 fino al 2000, insomma. Esatto, perché sopravvive a 50 anni, o a me piaceva pensarla così, alle trasformazioni della città. Si parla della periferia di Milano, dove una volta erano tutte case. L'unica casa rimasta alla fine del 1999 è la pensione Palomar, che non è stata toccata da niente. E Italo, che ha 80 anni, decide di chiudere a sua volta, come il proprietario precedente, e di trasformarla nella sua casa. E quindi il libro racconta degli ultimi ospiti che sono all'interno della pensione e che sono tutti in attesa di qualcosa, e tutti hanno perso qualcosa di molto grande nella vita. Si capisce infatti fin dall'inizio, come dicevi, come ricordavi tu, che Italo si porta un grande dolore dentro, ma anche gli altri personaggi hanno sempre qualcosa su cui riflettere, qualcosa per cui magari non si vogliono guardare indietro, invece, come dicevi tu, sono in attesa di qualcosa. Le loro vite si incrociano in questa pensione. C'è uno dei personaggi che mi è piaciuto particolarmente, che è Guido. Lui è un professore di inglese che ha un incarico particolare, quello di insegnare l'inglese a una bambina, diciamo, della buona società, della borghesia, che però non parla. Ma sì, Guido è questo professore d'inglese cinquantenne che ha perso il lavoro all'università. Lui è uno dei più grandi esperti italiani di Yeats, che è un poeta poco conosciuto ma che consiglio particolarmente, e l'ha perso per dei motivi che non dico, perché ci sono nel libro, fanno parte della storia, ma per cui lui non è responsabile, e quindi inizia a discendere, la sua vita scende verso un piano inclinato, e quindi si aggrappa a qualsiasi cosa, manda curriculum, siamo nel 99, quindi usa internet quando internet non era ancora diffuso, per mandare dei curriculum, fino a quando una scuola di lingue di Milano lo manda in questa famiglia molto benestante, però per insegnare a parlare a una bambina muta. Pierre, il maggiordomo, gli dice: se lei è abituata a insegnare a parlare una lingua che gli altri non conoscono, sarà molto facile insegnare a parlare a questa bambina, che si chiama Penelope ed è una bambina un po' strana, sembra che stia sempre in bilico sul cornicione di qualcosa, della sua vita forse. Tutti i tuoi personaggi, non solo in questo romanzo ma anche negli altri, sono personaggi che sono sempre un po' in bilico, comunque hanno sempre, come dire, si portano sempre un dolore dentro, comunque hanno un'interiorità particolarmente turbolenta, movimentata. È il tuo modo di guardare solo ai tuoi personaggi letterari o sei interessato anche umanamente alle persone più, non dico disturbate, ma comunque complesse? No, è proprio il mio modo forse di osservare il mondo, perché credo, e credo in questo libro di averlo raccontato molto di più che negli altri romanzi, cioè l'idea di guardare la fragilità delle persone. Ci sono persone che sono fragili da tutta una vita, ma conosco, e tutti le conosciamo, anche persone molto forti che poi si trovano dei muri davanti e si fermano, si arrestano. A me interessa questo delle persone, che è quello che non mostrano. Adesso c'è quella frase di Mazzacurati che viene spesso ripetuta ultimamente e che non ricordo a memoria, ma che ci dice più o meno di essere gentili con tutti, perché non sappiamo cosa si porta dentro una persona. Però in questo libro le fragili attese non sono solo, non è solo l'attesa che si risolva qualcosa nel passato, ma è anche uno sguardo verso il futuro. Ad esempio Italo, che a 80 anni ha perso ogni speranza nella vita, mentre sta svuotando la pensione, perché la deve trasformare in una casa, buttando via gli scatoloni, trova in un cassonetto una scatola da scarpe dove ci sono delle lettere scritte da una ragazza negli anni 50. E queste lettere hanno degli indizi. E quindi lui vuole ricostruire, anche insomma, se sono passati quasi 50 anni, lui attraverso questi indizi comincia a girare tutta la città di Milano per ritrovare questa persona che potrebbe essere morta, potrebbe, non si sa. Però è bello vedere che anche quando hai perso tutto, anche quando la speranza se n'è andata e la vita è comunque molto in avanti, puoi ricominciare ad avere 20 anni. Sì, perché Italo in questo senso è molto curioso a quel punto della vita, perché vuole scoprire che cosa c'è, chi c'è dietro queste lettere che lui ritrova e che legge insomma con una certa attenzione, un certo coinvolgimento. Parlavamo prima della fragilità dei tuoi personaggi, che anche questo è un tema insomma abbastanza ricorrente. Questo è un romanzo corale. Qual è il personaggio a cui hai pensato prima? Banalmente verrebbe da credere Italo, insomma, il proprietario della pensione, però qual è quello che ti è piaciuto di più anche narrare? Sicuramente ho pensato prima ad Italo, certamente, ma insieme anche ad Ingrid, che è questa arpista che ha il polso spezzato e quando si suona ad altissimi livelli, anche se poi si riaggiusta, non potrai più suonare in quel modo, e quindi fa la cassiera in un supermercato e di notte si accompagna a uomini conosciuti per caso. Mi è piaciuto molto raccontare lei. Il primo motivo è che ho dovuto entrare nella mente e nel corpo di una donna. È stato un grosso lavoro anche di ascolto nella vita di tutti i giorni per poter fare questo. E soprattutto Ingrid è una persona che di primo acchito magari ci sentiamo di condannare, però mi interessa di ognuno di questi personaggi l'altra faccia della medaglia. Non i giudizi facili, ma il perché le persone fanno certe cose. Non c'è un perché, però a volte c'è uno stato d'animo che ci fa deviare dalla nostra strada. E l'altro personaggio, io vado molto d'accordo con i bambini e con gli animali, e quindi è stato Penelope. E soprattutto la scommessa di far parlare una bambina muta. A proposito invece di Ingrid, adesso uno dei segni che ho messo nel libro, perché li segno sempre a matita, a un certo punto tu a proposito di Ingrid scrivi: non era niente di simile a fare l'amore, quello che Ingrid cercava era uno scambio, scambiarsi solitudini. Anche molto sola Ingrid, quindi appunto si accompagna così a uomini incontrati casualmente, anche che non sono degni di lei in qualche modo. Lei ha un passato molto, molto tragico, molto difficile, ha avuto tanto, dice, dalla sua vita precedente che adesso vuole scontare, senza sapere il motivo, vuole scontare tutto quello che ha avuto e che ha perduto, andando con persone molto sole. Lei va, dopo il lavoro, va in un locale, punta l'uomo meno desiderabile di tutti, anche per lei, e lo porta via con sé, perché è convinta che scambiarsi, che se, quando si scambiano la solitudine attraverso i corpi, si riescano forse in qualche modo a salvare o a lenire il dolore, mentre poi noi tutti sappiamo che anche lo scambio di un dolore, di una solitudine, vince quando è emotivo, quando è profondamente emotivo e vive nel silenzio della vicinanza. A proposito di Palomar è la pensione, appunto, però abbiamo anche dei riferimenti letterari e tu hai fondato una scuola di scrittura che si chiama così. Sì, è una scuola di scrittura che ho fondato appunto a Rovigo, nella mia città, dove curiosamente vengono persone da tutta Italia, ma non c'è nessuno da Rovigo, come accade di solito. E questa scuola è un po' la prosecuzione di quello che facevo quando stavo a Milano. Oltre a scrivere libri, facevo il talent scout per una grossa agenzia letteraria. Sono stati 4 anni in cui sono usciti tantissimi scrittori e l'idea è quella appunto di proseguire questo scouting da una parte. Dall'altra invece è quella di portare un'esperienza alle persone che vengono, perché dico sempre che l'obiettivo non deve essere pubblicare ma scrivere un buon libro, e quindi quello che si fa lì è di scrivere un romanzo negli 8 mesi più qualcun altro in cui si frequenta questo percorso, tenendo sempre però viva l'individualità di ogni persona. Si dice che le scuole uniformano gli stili, quello che voglio fare io con le persone che poi ci insegnano è tirare fuori maieuticamente le storie che ognuno ha già dentro. Grazie a Mattia Signorini, ora in libreria con Le fragili attese, pubblicato da Marsilio. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Ci sono dei libri che colpiscono proprio, come dire, un po' nello stomaco per tante ragioni, e della sensazione che ho provato leggendo Le piene di grazia, l'opera prima di Carmen Totaro, pubblicato da Rizzoli. È un romanzo strong, un romanzo forte per la storia che racconta e per la lingua che usa, perché è una lingua netta, precisa, senza fronzoli, che va direttamente al punto, potremmo dire. La storia, dicevamo, è particolarmente forte, è ambientata in Puglia, nella provincia di Foggia, ci sono 2 sorelle e fin dall'inizio si capisce che c'è un dramma. Vi leggo proprio le prime righe, l'incipit. Non era stata portata in caserma con la forza. All'arrivo dei carabinieri, donna Palma Castrocappone si era infilata scarpe, soprabito e foulard e le aveva seguiti di buon grado. Quindi si capisce, insomma, che una delle 2 protagoniste, Palma, è destinata ad andare in carcere, poi si vedrà perché. Carmen Totaro, questa, come dicevo, è una storia piuttosto forte, è una storia di 2 sorelle, una delle 2 insomma muore, lo diciamo subito, ed è una storia anche di ricerca della vendetta. Perché come opera prima hai scelto di debuttare con una storia, insomma, che per qualcuno può essere anche un po' disturbante in qualche punto? A me piacciono le storie forti. Quando leggo vado alla ricerca di un certo tipo di libri e probabilmente scrivendo ne vengo anche influenzata. In questo momento non avrei saputo scrivere altro, insomma mi interessava parlare di donne, di fragilità femminile, di donne che vanno incontro a un destino fallimentare in fondo, entrambe le protagoniste di questo libro. Entrambe le protagoniste, lo ricordiamo, Palma, che abbiamo conosciuto nell'Incipit, e c'è la sorella Maria Rosaria. Maria Rosaria è un po' considerata la perla del paese dove abitano, insomma la ragazza anche più ambita da tutti, quella che nelle processioni religiose occupa, come dire, la parte principale. E a questa ragazza succede qualcosa, insomma questa ragazza si innamora forse dell'uomo sbagliato? In pratica sì, si innamora dell'uomo sbagliato e non sa di andare incontro a un destino tragico. Diciamo che la sua peculiarità è proprio l'ingenuità, è una vera e propria sprovvedutezza quella di Maria Rosaria, perché lei va incontro alla catastrofe quasi a braccia aperte, al modo di una bambina assolutamente impreparata, disarmata di fronte alla catastrofe che si avvicina. Forse non può che essere che così, perché lei si fida ciecamente di questa persona e diciamo che va talmente al di là di quello che può essere un comportamento congruo per una donna, una ragazza, una giovane donna di quel tempo, che non può che fidarsi di lui. E sì, quindi... lei proprio si affida non solo a lui, ma c'è anche la parte, tanto possiamo dirlo perché è anticipato un po' nella bandella del libro, questa ragazza verrà isolata in una casa contro la sua volontà, ecco, ci sto girando un po' intorno. E anche quando c'è questa fase, diciamo così, del sequestro, lei sembra non reagire con particolare forza. Perché? Allora, Maria Rosaria è sicuramente un carattere fragile, non la descriverei come una donna forte, per cui diciamo che quello che le capita inizialmente, questo isolamento, come lo chiami tu, in cui lei si trova contro la sua volontà, è qualcosa di talmente grande che è come se le crollasse il tetto sulla testa, che inizialmente non sa reagire, e in un momento successivo della narrazione che prova a reagire, prova a liberarsi, prova a scappare, a tentare, a fare un timido tentativo per scappare, purtroppo non ci riuscirà. Questo romanzo è diviso così virtualmente in due parti. Abbiamo sentito l'incipit, no? Il momento in cui i carabinieri vanno a prelevare Palma, una delle due sorelle, per arrestarla. La prima parte è concentrata su quello che è accaduto a sua sorella Maria Rosaria, e la seconda invece è quello che accade dopo una serie di anni a Palma. Palma è una donna vendicativa o è la, come dire, la realtà, la crudezza dei fatti che l'ha portata? Io non credo che sia una donna vendicativa, è una donna che ha patito moltissimo, che ha subito l'ingiustizia, un'ingiustizia molto grave per la perdita di una sorella morta prematuramente, ingiustamente. Questa giustizia non è mai stata riparata e quindi lei si adopera nel tentativo di ripristinare una giustizia che non c'è mai stata, e sola in questa battaglia porta avanti una battaglia veramente molto molto più grande di lei, anche perché è veramente sola in questa battaglia, anche i genitori che hanno condiviso con lei il dolore della perdita non hanno gli strumenti, i mezzi per affrontare, per reagire, quindi lei si trova veramente sola, e la vendetta diciamo che è un gesto estremo che viene dopo un dolore patito molto grande. Perché poi lo ricordiamo, Palma nel momento in cui viene prelevata dai carabinieri ha un marito, ha una bimba piccola, e lei sa che dovrà lasciare la figlia. Quella è una delle scene, forse una delle scene più dolorose del romanzo, dove lei ha la consapevolezza che non potrà vedere la figlia. Sì, diciamo che io volevo mostrare questo personaggio, io volevo che lei fosse inserita nella comunità, quindi conduce una vita normale, si è sposata, ha avuto una bambina, apparentemente felice, non le manca niente, però c'è questa ferita antica che non è stata mai curata, che non si è mai rimarginata. È sola proprio nel suo dolore, insomma, esatto, sembra che nessuno riesca a comprenderla. Nessuno riesce a comprendere questo dolore che cova dentro, diciamo cova sotto la cenere. E a un certo punto lei si trova a doverci fare i conti, perché poi lei stessa dice le ferite appunto non curate si riaprono, e sarà costretta a farci i conti dopo alcuni anni dalla morte della sorella. Questo è un romanzo in cui abbiamo visto le protagoniste sono due donne, quindi protagoniste femminili, però agiscono in un mondo che è fortemente dominato dagli uomini. Che tipo di mondo è quello in cui Palma e Maria Rosaria si muovono? Allora, io penso è sicuramente un mondo in cui la libertà femminile non viene tenuta in gran conto, altrimenti non sarebbe pensabile una storia del genere, una donna che viene tenuta segregata, sì, segregata in un casolare così cadente e nessuno fa nulla, esatto, e di fatto le viene impedito di sposarsi o in ogni caso di incontrare la persona che ama, e in un momento successivo le viene addirittura sottratta la neonata. È sicuramente un mondo, sì, penso molto maschile, in cui la violenza domina, in cui ciò che conta in fondo è la volontà del più forte. È la volontà del più forte, ma io ho l'impressione anche che queste due donne, quando parlano, parlano un po', come dire, al vento, all'aria, nel senso che le parole, le poche parole pronunciate da Maria Rosaria non vengono prese neanche in considerazione. Le parole del dolore, anche del desiderio di vendetta invece di Palma, vengono ignorate, insomma, da chi le sta intorno. Sì, io nel libro non ho raccontato la vicenda giudiziaria, certo, cioè quello che accade, diciamo, la vicenda con all'interno i giudici, i magistrati, certo, che poi dovranno seguire la vicenda di Maria Rosaria. Il lettore capisce a un certo punto che i Lo Greco sono rimasti impuniti. Cioè in la pratica. Famiglia, insomma, esatto, del la famiglia che ha sequestrato, insomma, sequestrato una delle protagoniste del libro. La famiglia rimane impunita, quindi la giustizia non viene riparata. Grazie a Carmen Totaro, autrice di Le Piene di Grazia, la sua opera prima, pubblicato da Rizzoli. Un romanzo che ho definito potente, forte, insomma, che colpisce, anche strong nel modo in cui è scritto, dicevamo, una scrittura netta, pulita. Un romanzo che vi consiglio di leggere. Ed è tutto anche per questa puntata del Cacciatore di Libri, che vi ricordo trovate ovviamente in podcast su radio24.it. Grazie in regia Paolo Corleone, una buona lettura da Alessandra Tedesco.